il posto di lavoro, l'aria che respiro, niente di personale, tutto di collettivo. Mani stringono altre mani, accendono scintille, niente resa, solo rabbia dentro le pupille. C'è da prendere ste leggi e poi riconvertirle. Siamo voci che rimbombano, puoi sentirle. Sì, puoi sentirle. Vicoli, piazze, viali, leggi criminali, diventiamo percentuali. Arriviamo dove non ci aspettavi, vessili alzati come pirati, studenti precari, operai licenziati, accordi violati, piani saltati, niente da perdere, determinati. E intanto c'è chi prende tempo, promuove patti, frasi al vento dopo sti ricatti. Le uniche parole sono i fatti. Rientro dalla porta principale anche se mi sfratti. Dalla prima fila fino all'ultima. Dalla prima all'ultima città, niente di personale. Dalla prima fila fino all'ultima. Dalla prima all'ultima città, niente di personale. Tutto di collettivo. Picchetto notturno, lato cinema, GKN. Non c'è sconfitta negli occhi di questa gente. Ognuno al suo posto come sempre. Cortocircuiti scaldano l'autunno, presidio permanente. Non c'è sconfitta negli occhi di questa gente. Ditelo al presidente. Dalla prima fila fino all'ultima. Dalla prima fila fino all'ultima. Dalla prima all'ultima città, niente di personale. Dalla prima fila fino all'ultima. Dalla prima all'ultima città, niente di personale. Tutto di collettivo. Per ogni occupazione, ogni presidio. Dalla prima fila fino all'ultima. Il posto di lavoro, la scuola, il clima. Dalla prima all'ultima città. Qui nessuno è in salvo, siamo spalle al muro. Ora anche studiare è diventato un lusso. Insorgiamo perché vogliamo tutto. A muso duro per invertire il flusso. La lotta paga, specie se dilaga. Sono prove tecniche come io flaga. Insorgere per stare vivo. Niente di personale, tutto di collettivo. Dalla prima all'ultima città. Dalla prima all'ultima città. Mani stringono altre mani, accendono scintille. Niente resa, solo rabbia dentro le pupille. C'è da prendere ste leggi e poi riconvertirle. Siamo voci che rimbombano, puoi sentirle.